9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 13 ottobre, scusatemi, c'ho un po' di raucedine. Il tema da cui partiamo stamattina è in realtà ciò che spinge tanti giovani, e non so se loro soli o anche qualche professionista di antico tempo, di un organizzatore di manifestazioni, a dire quello che avete sentito al giornale radio quando i nostri colleghi hanno raccolto le motivazioni tra gli accampati sotto la sede di Banca d'Italia a Roma. Hanno chiesto perché state qua, perché intendete rimanere per 3 giorni fino a sabato a protestare le sedi di Banca d'Italia in tutta Italia, e loro dicono la nostra linea è chiara, i debiti noi non li paghiamo, perché i debiti li deve pagare chi li ha fatti. E fin qui Giannino è totalmente d'accordo. Giannino risponderebbe: lo Stato. E loro invece dicono: i finanzieri, i banchieri, per questo occupiamo la Banca d'Italia. Allora, perché partiamo da questo punto? Perché se la crisi che inizia 4 anni fa, l'estate, poi esplode con Lehman Brothers settembre 2008, poi riesplode con eccesso di debito non più privato ma pubblico da una parte e dall'altra dell'oceano, e il problema dell'eurodebito ce l'abbiamo aperto da 2 anni, e puntualmente come dopo un anno di finti pompieri sulla crisi dei mercati finanziari diventa crisi di fiducia e di solvibilità bancaria, anche adesso siamo tornati al punto in cui la crisi di credibilità del debito pubblico europeo di diversi paesi euromembri diventa crisi delle banche piene di carta pubblica, e quindi ecco che negli ultimi 2 mesi i mercati vanno prima a picco perché prevedono che presto o tardi le Dexia, le società in generale, eccetera eccetera, salteranno, e hanno visto che nel frattempo non c'è un meccanismo di convergenza europea che tenga. Ecco, allora, siccome risiamo a quello, domanda: è meglio pensare a un meccanismo comune europeo per mettere in sicurezza la cintura più esposta alla crisi dell'eurodebito, cioè quella delle banche, come ieri ha fatto intendere il presidente Barroso parlando al Parlamento europeo? Il presidente della Commissione ha detto che bisogna assolutamente mettere in sicurezza, ricapitalizzando, le banche più esposte, bisogna anticipare i coefficienti patrimoniali di vigilanza più elevati di Basilea 3, che sono invece naturalmente ciò che le imprese grandi e piccole e medie temono, perché dicono ancora meno credito per noi. Ma quello che conta è che Barroso ha detto che bisogna coinvolgere fin da subito l'EBA, cioè il vigilante bancario europeo, deve essere lui a indicare gli interventi da fare. Certo, poi la via prioritaria è quella che ci pensano gli azionisti privati a ricapitalizzare, ma bisogna immediatamente costruire la possibilità che sia l'FSF, il Fondo Europeo Salva Stati, che bisogna potenziare, a poter lui stesso mettere mano a denaro comune. Quindi Barroso dice a un Parlamento europeo, che in vero ieri era abbastanza disattento, e soprattutto dice al Consiglio europeo, agli Stati membri: signori, l'errore è quello di continuare a pensare che ciascuno risolve i problemi delle banche proprie, perché fino a che non abbiamo un meccanismo di cooperazione, di sostegno per la convergenza dei Paesi membri fuori linea con la finanza pubblica da una parte, e dall'altra meccanismi di intervento rapido comuni per la ripatrimonializzazione delle banche esposte, noi in realtà non abbiamo un'Europa, e quindi i mercati faranno bene a buttarci giù. Ha ragione o ha torto Barroso? E ha ragione o ha torto Draghi, che ieri, aprendo il convegno che per 3 giorni sarà in Banca d'Italia, quello contro cui protestano i giovani accampati sotto, ha ammonito l'Italia dicendo: quante volte l'Italia ha commesso l'errore di credere che la salvezza venga d'Oltralpe, il vincolo esterno, che sia la BCE a doverci salvare, come in effetti sta avvenendo, perché da agosto è la BCE che sostiene i titoli del debito pubblico, ogni settimana spendendo dai 9 ai 14 miliardi di euro in media. E attenti, perché il monito di Draghi, siccome tra poche settimane diventa lui la guida della Banca Centrale Europea, parla, allora perché suocera intenda, parla citando il Manzoni, ma è come dire: non contate sul fatto che un italiano alla BCE possa, per il fatto di essere italiano, continuare a comprarvi i titoli e sostenervi, dovete pensare a voi, dovete camminare con le vostre gambe. Caro governo italiano, nelle condizioni in cui stai dovresti dare altre risposte piuttosto che quelle sono attese oggi in Parlamento, dopo la reazione del provvedimento come l'assestamento del bilancio di 2 giorni fa. Tra l'altro anche oggi Consiglio dei Ministri, dove bisogna attendersi, dicono i giornali, l'illustrazione dell'attribuzione tra i ministeri dei 7 miliardi di tagli previsti per il 2012 dalla manovra estiva. Come sapete non c'è nessun accordo per il momento, perché al rituale di senso tra componenti del governo su come ci si distribuisce i tagli, si aggiungono tutte le tensioni di queste ultime settimane e il clamoroso voto negativo sull'assestamento di 2 giorni fa. Ecco, questi 2 interrogativi, però attenzione, i giovani hanno ragione o hanno torto? L'Europa deve salvarsi insieme come casmi comuni o ciascuno per i fatti suoi? Draghi ci dice che siamo in condizione di salvarci da soli, come ha ragione lui, secondo me, a dire, oppure davvero ancora una volta bisogna sperare che solo il vincolo esterno a reggersi? Ecco, questa raffica di domande, oltre a chiedere a voi di darci le vostre risposte, come al solito chiamando al nostro numero, la pongo ai nostri ospiti che vi presentano la prima parte della trasmissione. Sono con noi l'avvocato Alessandro De Nicola, che è il presidente della Adam Smith Society e scrive come editorialista per il Sole 24 Ore. Buongiorno De Nicola. Buongiorno. E Michele Boldrin, che è direttore del Dipartimento di Economia alla Washington University di St. Louis, coautore di un libro di cui abbiamo più volte parlato, Tremonti, istruzioni per il disuso, e fondatore e animatore, insieme a molti altri economisti italiani che hanno studiato e insegnano in America, alcuni di loro magari sono tornati, di Noise from America. Buongiorno, professor Boldrin. Buongiorno. Chiederei a lei innanzitutto le 3 rispostine, una ai giovani, se hanno ragione o torto a dire che devono rispondere nei banchieri, secondo Barroso ha ragione o torto, e terzo, come legge lei il monito di Draghi di ieri? Beh, inizio dall'ultimo, se dispiace. No, assolutamente. Il monito di Draghi mi sembra sia appunto chiarissimo, lei ha dato l'interpretazione corretta, sta dicendo che le risorse fiscali non possono necessariamente arrivare dall'altra Alpe, quindi fondamentalmente dalla Germania e i paesi del nord Europa, e che probabilmente non vi è alcuna garanzia, nel senso che non è nemmeno possibile che la Banca Centrale Europea continui a monetizzare, quindi a acquistare debito italiano, se in contropartita di questo non vi sono azioni concrete del governo italiano per ridurre il debito e soprattutto ridurne e bloccarne la crescita. Credo non abbia fatto altro che ricordare l'esistenza di un vincolo vero, non di un vincolo d'oltralpe, ma di un vincolo aggregato di bilancio. Quindi uno dei tanti moniti, devo dire, che Draghi è andato facendo ormai da anni, specialmente negli ultimi mesi. Barroso, ma qui il problema è che le discussioni continuano a rimanere estremamente ambigue, quindi la questione non è se deve esserci un meccanismo europeo, ognuno, o si salvi ognuno per parte sua, ovvio che deve esserci un meccanismo europeo, il problema è europeo, eccetera. Quello che non si riesce a affrontare chiaramente in modo esplicito è chi mette i soldi, e quindi la lascio semplicemente così. Né Barroso lo dice, nessuno lo dice, quindi chi mette i soldi, da che parte devono venire le risorse, chi assorbe le perdite, non le assorbe. I giovani invece che protestano di Magita le dicono che le perdite devono assumere i banchieri, e ovviamente lasciamo stare la questione etica se sarebbe giusto o sbagliato, perché i debiti li hanno fatti, come giustamente lei ha ricordato, gli stati, i governi, e non necessariamente i banchieri. L'entità banchieri non esiste e comunque non ha i soldi per assorbire le perdite, quindi se dovessimo seguire il suggerimento che i giovani che protestano di Banca d'Italia danno, le perdite dovrebbero assumerle le banche, quindi il sistema finanziario, quindi i risparmiatori, quindi anche i loro padri e le loro madri, che probabilmente sono quei risparmiatori ed hanno investito in debito pubblico o possiedono azioni di banche. Quest'ultima parte forse secondaria per quel poco che valgono ora, ma il debito pubblico è senz'altro sì. Quindi lasciando di lato la questione estetica, etica, affermo qualcosa di impossibile. Non so come reagire a un'affermazione impossibile. C'è una qualche analogia sul fatto che non riusciamo evidentemente a spiegare bene, mi assumo la colpa io, non sto parlando degli accademici, l'epicentro, il meccanismo e ciò che resta irrisolto di questa crisi di un modello di intermediazione finanziaria, se abbiamo oggi gli accampati a Wall Street da una parte e gli accampati sotto la Banca d'Italia dall'altra, perché lei ha spiegato benissimo che in realtà dire le banche significa che poi ne rispondono i risparmiatori. Come questo possa essere indicato da chi protesta, perché in realtà ha capito che dal punto di vista delle regole forse non si è messo a posto come si doveva questo modello di intermediazione finanziaria, però dall'altra parte Chi è che ha la colpa, secondo lei, se si può semplificare così paradossalmente, del fatto che chi è più sensibile socialmente pensa che siano i banchieri i colpevoli? Ma chi ha la colpa? Beh, sempre, i media, io purtroppo non sono particolarmente gentile col sistema complessivo di media su questo, perché la maniera in cui raccontano, non lo raccontate perché secondo me lei fa anche un ottimo lavoro, quindi non la voglio mettere in mezzo, la maniera in cui tutto questo è stato raccontato dall'inizio è semplicemente è troppo semplificata, è un po' assurda e spesso anche falsa, specialmente l'idea appunto che siano stati i banchieri o le banche a creare questo debito. E le banche possono essere state mal gestite, possono essere state ingenue, stupide, addirittura nel continuare a assorbere debito pubblico, ma il debito lo mettevano i governi e lo mettevano perché facevano dei deficit di bilancio, perché decidevano di spendere più soldi di quelli che avevano, perché nel bene o nel male, per in buona fede o in cattiva fede, decidevano che bisognava pagare questo e quell'altro, che bisognava fare quell'investimento, che bisognava mantenere quella pensione, eccetera eccetera. Questi abbiamo fatto il debito, le banche hanno preso risparmi di altri che ricevono perché lo devono gestire e hanno pensato, ripeto, possiamo qualificare questo pensare con tutti gli aggettivi del caso, che fosse un buon investimento prestare i soldi a questi governi, sperando e ritenendo che i governi poi avrebbero pagato, che gli stati avrebbero pagato. Questo non sta succedendo, o si ritiene che non possa succedere, perché poi tutta questa discussione viene fuori dal fatto che c'è un'aspettativa. Lasciando il caso greco, che è un caso in cui c'è una crisi forse più acuta anche di solvenza immediata, poche settimane o mesi, nel caso degli altri paesi come l'Italia, la Spagna eccetera, non è che questi governi, questi paesi non stiano pagando, si sono create una serie di circostanze per cui si ritiene che non siano in grado di pagare. Ora, perché a questo punto non si è arrivato ai giovani che protestano a Wall Street, a quelli che dal 15 di maggio protestavano a Puerta del Sol e a quelli che adesso a New York vanno avanti alla... Beh, quelli di New York hanno, non metterei silenzio, almeno loro hanno una richiesta un po' più esplicita e un target un po' più chiaro, nel senso che sono insoddisfatti apparentemente delle riforme del sistema finanziario che l'amministrazione Obama aveva introdotto. Siccome alcune di quelle critiche le condivido, lascerei da parte, ma insomma, gli altri hanno semplicemente una grande confusione in testa, l'impressione che il sistema dei media non gli abbia spiegato cosa sta succedendo e perché rischiano di essere loro quelli che pagano la bolletta. Allora, ci ha raggiunto intanto il professor Giulio Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano. Chiedo scusa all'avvocato Di Nicola, ma abbiamo proprio per pochissimi minuti Sapelli con noi, perché poi ci deve immediatamente lasciare. Chiedo a lui, stiamo chiedendo troppo alle banche centrali, alla BCE? In definitiva, poi è strano, perché sono i tedeschi che dicono noi non paghiamo, per i greci che dicono alla BCE che deve comprare i titoli, perché la BCE non deve risponderne a un elettorato. Dall'altra parte la BCE dice è una cosa impropria, dovreste farlo voi, dovreste, se annunciate i piani salva stati e i piani salva banche, spiegate che ci deve mettere i soldi, come dice Boldrin, e allora in quel caso dovete dirlo agli elettori, non dobbiamo essere noi. Contemporaneamente Draghi ci dice, e ha ragione secondo me, non sperate che io da italiano adesso, siccome vado alla BCE, sia io poi a dovere a quel punto risolvere i problemi che il governo Berlusconi e la politica italiana non risolve e anzi aggrava. E stiamo chiedendo un po' troppo alle banche centrali, oppure no, secondo il professor Sapelli? Ma dunque, innanzitutto buongiorno e grazie. Ma non è che stiamo chiedendo troppo, stiamo chiedendo alla Banca Centrale Europea di comportarsi in un altro modo. Cioè, il problema vero è che se i governi fossero dotati di un lume di intelligenza, dovrebbero cambiare lo statuto della BCE e farlo come la Federal Reserve. Di fatto la BCE comincia, cosa fa? Essere prestatore in ultima istanza, diciamo così, stampa moneta, interviene, assicura che comprerà i titoli di Stato, cioè di fatto diciamo il commissario che adesso diciamo la dirige, l'ispettore Clouseau, si sta comportando come un piccolo Bernanke, pur senza dirlo. Di fatto quindi la BCE ha già travalicato il proprio statuto. Il problema vero però, che non bisogna nascondersi dietro un dito, il debito sovrano è frutto della politica dissennata che hanno fatto le banche universali, quindi il problema vero diciamo, mi spiace per il collega Boldrini e così. Cioè, lei dice che in realtà, insomma, i giovani sotto la Banca d'Italia una qualche ragione, più di qualche ragione ce l'hanno. Ma no, ma scusi, ma lo stesso Bernanke ha dato a Main Street, ha dato di Main Street un giudizio positivo, dato che Bernanke è, a differenza di tutti gli altri governatori delle banche centrali, un grande economista ed è stato un grande professore che ha passato la sua vita tra la gioventù, ed è un teorico del target inflation, ha fatto delle cose molto molto importanti, ha detto li condivido, sono d'accordo. Diciamo che i giovani hanno capito che la casta non sono i politici. Proviamo a spiegare un po' allora le responsabilità del modello di banca universale rispetto alla moltiplicazione dei debiti sovrani. È molto semplice, perché hanno assunto una quantità di rischi immensi, non utilizzando, come si faceva una volta prima, delle cosiddette riforme del Glass-Steagall e poi della legge Amato in Italia, le risorse che davano loro degli investitori consapevoli dei rischi che correvano, ma utilizzando anche i depositi dei depositanti, cioè i soldi che la signora Gina andava a mettere in banca perché era sicura che la banca gli garantisse la sicurezza. Se tu invece, come hanno fatto loro in tutti questi anni, le banche d'affari, che sono diventate anche banche miste sia perché intervengono nell'industria, funzionano come delle IRI, poi però fanno anche speculazioni arditissime, ripeto, con i soldi dei depositanti, hanno creato una leva finanziaria spaventosa, un rischio spaventoso. Il debito sovrano, per carità, c'era il debito pubblico, ecco, ma non prendiamoci in giro, la Francia, la Germania avevano 60-70%, ma scusate, ma come si fa a dire stupidaggini di questo tipo? Il debito sovrano è nato in questi ultimi anni, salvo che in Italia e in Giappone è in Belgio, perché gli stati hanno dovuto nazionalizzare o salvare le banche che hanno portato il mondo sull'orlo della catastrofe. E quindi, insomma, bisogna smetterla di dire le cose con eufemismi che nascondono la verità, che sono una vergogna. Prima di salutarci, professor Sapelli, lei dice che ha ragione Barroso, bisogna adottare meccanismi comuni europei per salvare e ricapitalizzare le banche, oppure ciascuno deve pensare a quelli di casa propria come i tedeschi fin qui hanno imposto? Ha ragione a uno come Barroso, perché è uno che manderei senza neanche dargli 18, però ormai è lì e non si può farne a meno. Dico che però, che mentre si fa questo, bisogna anche abbassare i tassi, perché se tu fai solo questo e ricapitalizzi solo le banche, siamo da capo. Bisogna che la BCE, anche se al tasso 1,5, faccia sì che i tassi scendano allo zero, perché il denaro deve costare sempre meno, perché le piccole e medie imprese possono approvvigionarsi. Poi pensiamo anche a salvare le banche, però non si può fare una politica a un binario solo, perché sennò creeremo debito sovrano interstatuale e non risolveremo mai questi problemi qui. Finché non riformiamo, cosa aveva detto Volcker? Il problema non è la iper-regulation alla sovietica, no? Come se si potesse regolare, controllare tutti. A me, diciamo, questi fondi di stabilizzazione mi fanno ridere. Ma il problema è di spezzare di nuovo in due l'industria finanziaria. Cioè, lei tornerebbe a chi ha le banche, insomma, come era prima con la legge bancaria del 1936, la provvista agli impieghi a corto rispetto, certo, ai pochissimi che devono avere regole diverse perché fanno quella migliore. Ma come lei sa benissimo, e molti nostri ascoltatori, perché l'ascoltatore di Radio 24 è un ascoltatore evolutissimo, è quello che vogliono fare gli inglesi adesso, no? Esattamente. Vogliono fare gli inglesi. Cosa gli hanno detto la banca inglese? Se fate questo, noi andiamo a New York. Allora bisogna che, dopo tutta questa retorica che veramente è stomachevole, si mettano d'accordo Europa, Stati Uniti, di fare questa riforma bancaria. Perché il problema è che questo è un po' come la Tobin Tax, ci si mette d'accordo in tutto il mondo, oppure c'è sempre qualcuno che con la banca universale se ne va da qualche altra parte. Se no, questa pantomima, altro che gli indignati. Guardi, io le faccio una previsione. Non pensate che il movimento dei giovani usi strumenti arcaici. No, questo no. Quello che è successo su BlackBerry, quello che sta succedendo su BlackBerry, che probabilmente è un hacker attack, non escluderei che questi giovani arrabbiati contro le banche si muovano con strumenti informatici per scassare il sistema finanziario. Quindi i rischi sono molto più alti se questa gente non si dà una regolata. Va bene, il professor Sapelli come sempre ci ha dato una rasoiata. Ritorno alla separazione tra banca commerciale ordinaria e banca di medio e lungo termine. E io lo giudico, ohimè, l'adozione di un provvedimento che è molto improbabile. Non credo che l'industria finanziaria consentirà svolte di questo tipo. L'abbiamo visto con la Dodd Banks, cioè con la riforma finanziaria di Obama negli Stati Uniti. E su questo ripartiamo con l'avvocato De Nicola e poi con Michele Boldrin. E intanto incombe l'ombra dei cyber attack. C'è anche il problemino per quello che mi riguarda il sabato di una cosa importante che dovrei fare a Roma. Non ne voglio parlare, ma insomma, non so come finirà questa storia qua. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci tornati per questa seconda parte della trasmissione. Siamo partiti dalle proteste dei giovani accampati sotto Banca Italia e di qui a sabato Roma bloccata per questo. L'ingorgo del governo da una parte con il no all'assestamento di bilancio e il rendiconto annuale che aspetta mentre si intreccia la scadenza, perché ormai siamo indietro rispetto al termine di presentazione della legge di stabilità che era dovuto per fine settembre e che si è persa nella difficoltà del governo. Poi abbiamo chiesto, Barroso ha ragione o torto quando dice le banche bisogna affrontare con un'ottica comune europea invece che ciascuno pensare alle proprie, e ha ragione o torto Draghi, ha ragione diciamo noi, a dire che l'Italia non può continuare ad aspettarsi che sia la BCE la stampella su cui reggere. Uno spread comunque troppo cospicuo, già troppo cospicuo, ma che regge non è, non si eleva fino a 500 punti solo grazie agli acquisti settimanali della BCE. Due risposte. Fino a questo momento la linea Giannino Boldrin è sì, però non dimentichiamoci che i debiti li hanno fatti gli stati, non le banche. Le banche li hanno assunti. La linea invece del professor Sapelli è no, non dite palle. Qui il problema è che l'esplosione vera dei debiti è venuta per salvare le banche in tutti i paesi, tranne Italia, Giappone o Belgio, che le avevano già elevati di loro. E quindi deriva da i rischi che lo Stato ha dovuto prendere sulle spalle dei contribuenti perché gli azionisti delle banche non avevano saputo fare il loro mestiere e non avevano saputo vedere che il patrimonio di vigilanza non era adeguato ai rischi enormi che con quella leva finanziaria le banche avevano nei propri attivi patrimoniali. E quindi è il contrario di quello che dite voi, i giovani tutto sommato hanno più ragione che torto. Barroso bocciato da Sapelli, però dice tutto sommato ha ragione lui, bisognerebbe avere uno schema comune. Che dice un liberista mercatista come De Nicola di fronte a queste due tesi? Allora c'è un sacco di carne al fuoco, vediamo una cosa per volta. Prima di tutto il debito sovrano che fa paura in questo momento e che è quello che sta creando le crisi finanziarie in Europa, non è un debito sovrano di provenienza bancaria. Il professor Sapelli può dire che il debito sovrano che è aumentato negli Stati Uniti o in Gran Bretagna è dovuto alla crisi bancaria che c'è stata nel 2007-2008. Poi vediamo se questa crisi bancaria è colpa solo delle banche o colpa anche dei regolatori, ma questo dopo. Però il debito sovrano che sta facendo paura ora è un debito del tutto indipendente, è quello della Grecia che ha truccato i conti e che ha speso più di quello che poteva permettersi. È quello dell'Italia che era al 120% anche prima e non è assolutamente cambiato, e la crisi per l'Italia c'è stata tutta per motivazioni politiche, cioè i mercati a un certo punto che avevano salvato l'Italia, vi ricordate gli ascoltatori avete sempre sentito parlare dei pigs e gli italiani ci consolavano dicendo la I di pigs non è più l'Italia ma l'Irlanda, Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia, mentre adesso è rientrata anche la I dell'Italia. Perché? Perché a un certo punto non c'è stata più la credibilità politica, i mercati si sono spaventati sul fatto che l'Italia avesse la credibilità politica per fare qualche cosa. Il Portogallo, che peraltro invece sta facendo adesso delle riforme ottime, ma il Portogallo non ha niente a che fare il debito del Portogallo con la crisi bancaria. In Spagna ci sono alcune banche che stanno messe male, ma il problema della Spagna, ancora una volta, è un problema che poco ha a che fare con le banche. Quindi il debito sovrano che fa paura oggi, e che è quello che necessita del fondo salva stati, che necessita della ricapitalizzazione delle banche, perché le banche hanno titoli di Stato, chiamiamoli così, a rischio, è un debito sovrano dovuto alla politica, prima cosa. Le banche. Allora, è vero che ci sono state delle banche, anzi è stato un sistema bancario che ha giocato al casinò, questo possiamo dirlo tranquillamente, ma il giocare al casinò è dovuto al fatto che a un certo punto tutti i banchieri impazziscono e giocano al casinò, oppure perché c'è un ambiente regolamentare che gli consente e incentiva a far questo? Gli operatori economici, i banchieri sono degli operatori economici, rispondono a degli incentivi. se gli incentivi pubblici sono fate i mutui subprime, che ricordiamo agli ascoltatori sono quei mutui concessi a chi non ha una credibilità come debitore sufficiente e che quindi in condizioni normali non gli verrebbe fatto. Quindi se il regolatore dice fate pure i mutui subprime, cosa che è successa negli Stati Uniti, se l'autorità monetaria tiene il tasso di interesse troppo basso, e quindi io non sono proprio convinto che adesso bisognerebbe ancora abbassare il tasso di interesse, in questo momento abbassare il tasso di interesse non è che necessariamente vuol dire che le piccole imprese hanno più credito, perché in questo momento il tasso di interesse è già abbastanza basso. E sapete cosa fanno le banche? Le banche si indebitano con la Banca Centrale Europea all'1,5 e dopodiché comprano BTP a 4,5 e così fanno i loro bilanci. Questo è il modo, e il credito in questo momento è concesso con molta riluttanza sia ad imprese che a risparmiatori. Quindi è vero che c'è stato un concorso di colpa del sistema bancario, ma anche perché sono stati i regolatori che hanno messo il sistema bancario nelle condizioni di avere gli incentivi per sbagliare. E qui non è questione di un regolatore catturato dalle forze del mercato, perché non sono le forze del mercato. Se proprio è stato catturato da qualcuno, è stato catturato dagli operatori, cosa che un qualsiasi mercatista deplora, perché l'autorità di regolamentazione non deve essere catturata dagli operatori, perché come diceva Adam Smith, quando si trovano in tre complottano contro il pubblico interesse e non per il benessere pubblico. Ultima cosa, gli indignados o gli indignati, non vorrei sembrare riduttivo, ma mi sembra un fenomeno mediatico, anzi io mi stupivo che tutto sommato in un periodo di grande crisi economica finora ci fosse stata una certa quiete rispetto alla protesta. In tutte le società occidentali c'è un fondo culturale anticapitalista che riemerge periodicamente e naturalmente riemerge con più semplicità nei momenti di crisi. Non è che gli indignati abbiano identificato banche e banchieri perché hanno fatto un'analisi sofisticata come quella che fa il professor Sapelli, anche se io non concordo con quello che dice, ma è una delle tante espressioni dello spirito anticapitalista che c'è nelle società occidentali da ormai un secolo e che riemerge in forme diverse e riemerge più facilmente nei periodi di crisi. Bene, sentiamo rapidamente come la pensano alcuni ascoltatori. Cominciamo con Americo che ci chiama da Lodi. Prego Americo. Sì, buongiorno Giannino. Buongiorno. Senta, rispetto a quello che ha detto la persona che è intervenuta adesso, sinceramente ho parecchi disaccordi, ma volevo tornare a quello che era, diciamo, la mia idea primaria. Sì. Il discorso degli indignados. Secondo me gli indignados, al di là del fenomeno mediatico o meno, sono in realtà un fenomeno e con questo va preso in considerazione. Oggi come oggi hanno completamente sbagliato bersaglio, nel senso la protesta è giusta, è corretta, i motivi sono perfetti, ma andare a protestare davanti alla Banca d'Italia è obiettivamente inutile, visto che fondamentalmente, per quello che ne so io, e sicuramente qui paleserò la mia ignoranza, la Banca d'Italia è più che una banca, un ente regolatore delle banche italiane. Per cui fondamentalmente è inutile che vada a protestare davanti a chi ha dovuto o deve fungere da regolatore, quando in realtà sono i regolati che mi creano problema. E questo purtroppo me lo testimonia anche quello che mi stava dicendo, appunto, quello che stava dicendo la persona che è intervenuta prima di me. Alla fine della festa le banche, tra virgolette, essendo enti che vivono sulla movimentazione del denaro, lavorano fondamentalmente per l'interesse della banca, non tanto per l'interesse dei clienti. Pronto? Sì, insomma, teniamo conto che il risparmio è costituzionalmente tutelato, teniamo conto che ci sono tante vicende come questa, per esempio, della Banca Popolare di Milano che è in corso, su cui molto avrei da dire, su come anche il regolatore si sveglia all'ultimo secondo rispetto a comunque pratiche interne che insomma sono quelle poi che ci ha rivelato la vigilanza. Io non credo che siano queste vicende qua, cioè di come la Banca d'Italia esercita i suoi poteri di vigilanza e di intervento e di sanzione di richiamo al rispetto di regole trasparenti del sistema bancario, il motivo per cui i ragazzi sono accampati lì. Ma in realtà, per quello che diceva Sapelli, immaginando che questo sistema bancario, che alla fine chiede alla gente di aumentare di più le tasse attraverso i governi che devono poi dire bisogna salvare le banche, a loro giudizio è molto colpevole. In Italia non è quella la storia che abbiamo alle nostre spalle, perché è tutt'altra. La nostra è uno Stato in cui è la politica che ha raccontato sempre balle, poi alla fine ha aumentato la spesa corrente, ci ha levato i 7 punti di PIL, i minori interessi sul debito pubblico entrati nell'euro, che potevano essere tradotti in meno pressione fiscale a parità di spesa pubblica corrente. Quindi da noi è la politica delle balle, la politica della gente che non ha più faccia da difendere. Anche secondo me, dovessi dire ai ragazzi che su cosa protestare, direi questa seconda più che Mario Draghi o la Banca d'Italia, però sono libero di pensarla diversamente, perché questa cosa trasversale di un movimento che identifica nel sistema finanziario e quindi anche nei suoi regolatori il fomite di ogni male, e qui ci sarebbe una lunga discussione da fare. Io per esempio non credo alla possibilità di tornare all'idea della separazione per modelli bancari di attività temporale, però Sapelli dice per esempio è l'unica strada, ha ragione Paul Volcker. Sentiamo Primo, che ci chiama dalla provincia di Milano, come la pensa. Primo, prego. Buongiorno dottore e complimenti per la trasmissione. Io volevo dirle due cose, una velocissima: l'euro, fintanto che non si farà una legislazione uguale in tutta Europa, finirà per aria. Secondo, quella che mi interessa di più, noi parliamo degli indignados in questo momento davanti alla Banca d'Italia, ma questi indignados, che poi alla fin fine non sono proprio dei ragazzini giovanissimi, sono anche i beneficiari di tutto quello che c'è in Italia, e in Italia non è che non ci sia proprio niente. Quindi in Italia si sono fatte le autostrade, si sono fatte le ferrovie, si sono fatte le scuole, si sono fatte un sacco di cose. Quindi alla fine bisogna domandarsi, ma se non le avessimo fatte tutte queste cose, probabilmente il debito sarebbe molto più piccolo, ma però probabilmente il tenore di vita di tutti noi italiani attenzione, sarebbe diverso. Primo, però questa è gente che ormai da due generazioni, cioè voglio dire, da vent'anni i ragazzi, i giovani, anche i meno ragazzi, perché ci sono tanti professionisti, diciamo così, dalle manifestazioni, però insomma, il mondo lo hanno visto, e hanno visto che i paesi hanno molto meno debito pubblico sul PIL di noi, hanno infrastrutture incomparabili rispetto alle nostre. Il professor Boldrini scrive sempre da anni, quando dicevamo, ed è una risposta anche a quelli che dicono ma insomma dover accettare l'idea che i bonus spagnoli hanno uno spread sempre inferiore al nostro, il professor Boldrini da anni, siccome conosce la Spagna perché poi ci insegna anche, spiegava le radici del successo spagnolo, e non nascondendo la bolla immobiliare che poi è crollata, adesso ci hanno disoccupati ben oltre il 20%, però in termini comparati quello che ha incorporato la Spagna negli ultimi anni rispetto a noi, con un tasso di debito pubblico sul PIL incomparabilmente più basso del nostro, è la dimostrazione, caro Primo, che la gente fa bene a protestare, perché si è resa conto che c'è chi incomparabilmente con molto meno debito pubblico nostro, perché il debito pubblico non si accende solo per infrastrutturare, cioè, di solito si fa per costi della politica, radicamento della politica, informazione di prezzi in catena intermedia dei beni e servizi, dove la politica non ci deve stare, come nella sanità e così via. E quella è la spiegazione del perché ci abbiamo il 120%, né? Rispetto a gente che c'ha un terzo o il 50% meno di noi. Sentiamo ancora come la pensa Raffaele dalla provincia di Varese. Prego Raffaele. Sì, buongiorno dottor Giannino. Eccoci. Ascolti, una semplice domanda che vorrei rivolgere a chi mi può rispondere, e rispondere anche ai cittadini comuni. Allora, perché io devo, cittadino comune, aiutare la banca quando la banca mi chiude l'accesso al credito, sia che io sia un'azienda, sia un privato cittadino oberrato? Cioè, cosa chiedono ai cittadini? Di soffrire di sindrome di Stoccolma? No, allora, mi sembra che questo è veramente troppo. Questo naturalmente fino a questo momento non si è creato questa contingenza, tranne che per i Tremonti Bond ad alcune banche, ma è un fenomeno di tutti i paesi avanzati a risposta alla crisi. E lei dice: ma perché poi alla fine dobbiamo salvarli? Perché non dire ai loro azionisti incorporatevi tutto il massimo danno possibile, sparite e salviamo invece i depositanti? Boldrin, come si risponde a questa domanda, ma aggiunga qualunque altra considerazione rispetto a tutto quello che abbiamo detto da quando ha parlato? Certo, allora chiarisco. A mio avviso non vanno salvate le banche nel senso di salvare gli azionisti, gli acquirenti di emissioni obbligazionarie delle banche e nemmeno il management. Ma questo per pure ragioni, perché così funziona l'economia di mercato. Quindi se bisognerà salvare le banche con denaro pubblico, le si nazionalizzerà, l'azionariato perderà quello che deve perdere e spero anche si farà piazza pulita di un manager che si è dimostrato semplicemente incompetente. Punto numero uno. Punto numero due, domanda. Il signor Giulio Sapelli, cosa è, se ho capito bene, professore universitario, di che materia? Storia economica, la Statale di Milano. No, storia economica fantastica, perché adesso se n'è andato, vabbè, a fare i suoi, però ha detto una serie di falsità, perché le cose false tali sono, si chiama la falsità. Il debito pubblico sovrano, l'ha ricordato anche Alessandro prima, ma lo ripeto, non è per niente frutto del fatto che i governi hanno salvato le banche. L'unico debito sovrano che è frutto di una salvataggia delle banche è quello irlandese. Quello spagnolo non è stata salvata nessuna banca, si sta cercando adesso di salvare le banche, tra l'altro banche pubbliche, tutte banche gestite da politici, cioè le casse di risparmio, mentre le banche private, perché lì il regolatore ha fatto il suo dovere, le banche private sono del tutto tranquille, non hanno bisogno di essere salvate. Comunque il debito pubblico spagnolo è frutto di spesa pubblica, di meccanismi assistenziali, di una grande caduta del gettito fiscale. Con l'italiano sappiamo benissimo da dove viene, niente a che fare con le banche, lo stesso vale per il francese, il tedesco, il belga e il greco prima di tutti, e anche l'americano, perché il totale di debito pubblico americano in essere, che può essere dipeso dagli provvedimenti presi nel 2008 per mantenere in piedi alcune banche, è forse pari all'1%, 1,5% in quel debito. Quindi non so da dove questo signore prenda i pseudofatti che poi racconta. Quindi chiarito questo, poi la discussione diventa improbabile, perché è improbabile discutere con uno che fa affermazioni false e poi ne svolge ragionamenti logici di conseguenza. Il debito quindi è debito sovrano, se vogliamo risolverlo si risolve da lì. Cosa implica questo? Questo implica che ricapitalizzare o non ricapitalizzare le banche, e valgono le cose dette prima, chi le ricapitalizzerà, se devono essere soldi pubblici, se sono soldi privati, vorrei capire bene da dove vengano, dubito alquanto che vi sia oggi nel mercato privato una quantità sufficiente di ricchezza da ricapitalizzare le banche europee in maniera tale che possono assorbire e sopravvivere eventuali default di debito parziale o totale da paesi come Grecia e Portogallo, dubito che ci sia, quindi credo che sotto ci sia un problema di intervento pubblico. Comunque farlo, ricapitalizzare le banche, non risolve il problema, perché di nuovo l'origine del debito è la dissennata politica economica di una serie di stati, e o si affronta quella o il debito ritornerà una volta pagato. E questo ci porta all'altra questione che continua a leggere, la storia della cosiddetta politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea. Ora, io ho svariate critiche tecniche da fare al comportamento della Banca Centrale Europea negli ultimi 2-3 anni, avrei voluto fare il loro lavoro leggermente meglio, ma non hanno fatto per niente male. E l'idea peregrina secondo cui abbassare i tassi di interesse dall'1,5 allo 0 farebbe una grande differenza, tale è peregrina. Sono anche d'accordo con Alessandro De Nicola che visto che le bolle finanziarie sono state determinate proprio da politiche di tassi bassi, abbassarle ulteriormente non è ovvio che possa far bene, ma anche tralasciando quella questione occorre rendersi conto che appunto ridurre il tasso di sconto di altri 100 punti base potrà al più aumentare quella leva fiscale che di fatto banche e istituzioni finanziarie oggi utilizzano, che consiste esattamente in quello che De Nicola ha descritto: prendere a prestito a tassi bassi e investire in debito pubblico, magari bond, magari debito pubblico un po' più sicuro che rende 4-5 punti, 3 punti e mezzo, eccetera, facendo dei comodi profitti. La capacità delle banche e la volontà delle banche di investire, di finanziare nelle piccole e medie imprese che in questo momento non ricevono credito o che ritengono di non ricevere credito non dipende dal tasso di interesse che la Banca Centrale Europea determina, dipende dalle prospettive reddituali di quelle imprese, dipende dallo stato patrimoniale delle banche che è debole, quindi non vogliono esporsi a rischi, dipende da questi fattori. Quindi o si riesce a risolvere questi fattori, oppure la pura abbassamento dei tassi di interesse non servirà a niente. Allora, in sintesi, le conclusioni mie, avete ascoltato nelle tesi del professor Michele Boldrin e dell'avvocato Alessandro De Nicola una risposta di mercato, ma ragionevole, su dati di fatto, sul fatto che invece che perdere tempo, se permettete, e lo dico con rispetto, protestare sotto la Banca d'Italia, l'obiettivo del vostro sdegno, delle vostre preoccupazioni, del vostro pregiudizio sul futuro nasce altrove. E con tassi non come dicono gli keynesiani statalisti sempre bassi, ma magari anche più alti, perché servono a discriminare meglio i rischi e a far pensare bene a chi si indebita che poi deve remunerare il suo debito, e con procedure che non sono un impossibile ritorno al passato, ma sanno discriminare i comportamenti da chi prende azzardo morale, da chi invece assume dei rischi che poi remunerano e che non fanno saltare chi li ha presi e non cadono sulla testa dei risparmiatori. La nostra risposta è: con uno Stato che sa stare in piedi in maniera più credibile, che spende di meno e che tassa di meno, si fa chiarezza per tutti e si le dà un futuro a voi tutti. Capisco il casino di protestare dove sembra che siano i finti colpevoli, ma la realtà dei colpevoli sta altrove. Altrove. Alle 11 noi presentiamo su Radio 24 in diretta il discorso del Presidente del Consiglio, e sarà Stefano Folli a seguire la telecronaca. Ci saranno anche collegamenti appunto con i giovani che protestano le piazze e anche con gli inviati dove sarà l'opposizione. Temo che il fuoco della crisi della credibilità stia lì, cari ragazzi, anche se non ci ascoltate, non in Banca d'Italia. Comunque, a domani, Linea Giornale Radio.